Pane, burro, rock and roll, sono le 8. Questa è la seconda ora. Burro e rock and roll. Andiamo dritti fino alle 9 di quest'oggi. La tua colazione rock. 14 febbraio 08. Ogni giorno alla mattina. L'anno della svolta. Rock FM. Puntata intensa quella che abbiamo gestito fino adesso, con ovviamente l'ombra di San Valentino che si allunga sugli sms che arrivano al 335 100 77 77. Ma vi ricordo, come è stato appena fatto da uno spot, che qui siamo in attesa dell'appuntamento di domani con gli ACDC con la bocca, non vediamo altro, la nuova frontiera di noi di pane, burro e rock and roll. Iniziamo anche quest'oggi con il brano segnalato da Mox Cristadoro, che cede anche lui alla ricorrenza valentiniana e ci propone forse il brano più dolce della storia del rock. Si chiamano Beach Boys e questa è God Only Knows. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Sono sensibile. Beach Boys, grazie a Mox. Allora, due messaggi veloci per restare in tema, vediamo se lo ritrovo. Ai valentini idraulici, diamoci dentro, castighiamole tutte. Ste, sono nel reparto maschi rudi, c'è anche questo che non è male. Fabio da Livorno, buongiorno. Buon San Valentino a Roberta, post scriptum, stasera ti scoppio. Speriamo per Roberta, ok? Bando alle ciance e alle quisquiglie, pensiamo a cose serie. Abbiamo fatto finta di niente fino a oggi, ma non si può, soprattutto a voi di questo orario qui, perché è successo qui il fattaccio. Vi ricordate quella cosa che ogni tanto io e Frick ci mettavamo a fare le telefonate a caso per vedere di raccattare qualche sponsor? Settimana scorsa abbiamo raccattato, cioè abbiamo telefonato a una nota ditta di Chinotti che non l'ha presa tanto come scherzo e ci ha dato un appuntamento. L'appuntamento è tra poco, Io e Frick abbiamo deciso di arrivare preparati all'appuntamento e quindi abbiamo chiesto l'aiuto di un amico. Ci ha tenuto delle lezioni che vi faremo sentire da qui fino al giorno dell'appuntamento. Lezioni per trasformare Ariel e Frick, due rocker zozzoni, in uomini da marketing. Ho girato ogni due ore. Allora Roberto, martedì prossimo abbiamo l'appuntamento col brand manager di questa nota ditta di chinotto italiano. Non me ne parlare, sono tutto in fibrillazione. Guarda che ti ho portato, Camonchia. Buongiorno. Ah, buongiorno, piacere. Buongiorno signore. Lui è un buongiorno. Manager serio, manager delle band, lui sa vendere le cose. Ah sì? Te l'ho portato qui perché... Un vero manager. Sì, dalle mie parti c'è anche il mercato oggi. Addirittura. Abbiamo un vero manager qua in studio. Lui in quattro appuntamenti ci insegna come venderci bene. Cercheremo di portare da casa della teoria alla pratica quello che deve essere poi la funzionalità di tutto il rapporto con l'azienda. Dobbiamo arrivare preparati. Sì, vabbè, io sono un po' intimidito da questa ufficialità, non so. Non devi essere intimidito, perché affrontiamo la cosa carta e penna. Ah, ok, quindi non è una cosa... Ma è seria. Ah, non è una cosa non andiamo là alla buona, no, proprio. Ci prepariamo. Questa volta bisogna vendersi bene. Ok. Cerchiamo di portare a casa il risultato. Va bene. Il chinotto è importante. Qual è il risultato che vogliamo ottenere? Qual è? Prima domanda. Perché a me i soldi. I soldi. Sapete che scrivo i soldi. Perché noi ci saremmo anche accontentati di qualche bottiglia. Ma si svuotano poi quelle. Decidiamo noi poi che bottiglia comprare. Quindi mirare alto. Sempre alto. Sì, miriamo sempre alto. Al di là dell'altezza nostra. Soldi, mirare alto. Diamo del lei o diamo del tu? Io comincerei con un lei e finirei con un voi. Fantastico. Il tu non funziona. Il tu è un po' troppo operatore centro telefonico. Ma il voi no. Io col voi mi trovo benissimo, Frick. Ah, non vorrei che fosse accusato di tenere troppo le distanze, fosse. No, lei ci consiglia il voi. Io consiglierei il voi, ma perché poi alla fin fine dobbiamo portare a casa i soldi, ve lo ricordo, ma in particolar modo proverrei anche una buonissima cosa che potrebbe essere uno spot. Ecco, uno spot televisivo con Frick che canta la canzone. Con Frick che canta la canzone. Ah, possiamo ricantare Chinotto. Ragazzi, eh? Qua sono edizioni che arrivano poi. Pensiamo al futuro. Pensiamo al futuro. Bravissimo. Frick, bravissimo. Ce l'hai la firma su Chinotto. Bravissimo. Tu? Dunque, penso di sì. Devo riflettere. Ad ogni modo. E se no, prima andiamo in SIAE e cambiamo. Anche, e cambiamo, cioè, certo. Modifichiamo. Portando modifichiamo. Una lattina anche in SIAE. Assolutamente sì. Ma l'atteggiamento generale è sbarazzino. Possiamo fare i rocker noi stessi, una scaccolatina, no? Secondo me una scaccolatina non ci starebbe male a metà dell'incontro, cioè nel senso che innanzitutto la pattoia bisogna tirare sempre. La pattoia deve stare su, io te l'ho detto. La bottega va chiusa, scusate, non me la dimentico. Però è rock arrivare con la pattoia aperta. E vi assicuro che essere un po' rock affascina queste grandi aziende, perché comunque hanno bisogno del contatto con la quotidianità, cioè non li lasciamoli così, non rimaniamo dall'alto al basso, dal basso all'alto, cioè arriviamo nel centro poi alla fin fine. E quindi un po' rock ci vuole, l'attitudine. Quindi tra i miei appunti segno chiudere la bottega e scaccolarsi una volta sola. Scaccolarsi al massimo, max una volta. Ottimo, grazie Camonchia. Buona giornata. Ho girato ogni due ore. Ogni due ore fa passare il malumore. Supertramp, Breakfast in America. Questa invece è la Breakfast in Milano, o meglio parte da Milano. Pane, burro, rock and roll con la squadra, l'Ariele, Fricantoni, Spadino e gli amici e le amiche che ovviamente si fanno sentire via SMS. Lo abbiamo detto, è San Valentino, che voi lo vogliate oppure no. In molti commentano, fanno lanciano messaggi d'amore per le loro sbarbe, per i loro sbarbi. Molti fanno i rocker duri e puri che si lamentano contro la festività, ma facciamo lamentare chi veramente si deve lamentare, come per esempio un amico che mi sta a Firenze, anche se è di Livorno, mi ha 34 anni, si chiama Massimiliano. Buona giornata, Massimiliano. Ciao Ariel. Il problema è che lui è dal 10 di gennaio che di lavoro impacchetta e spedisce regali per San Valentino. Che tenerezza! No. C'ha la carogna che non finisce più, Massimiliano. Allora, mi piacciono questi interventi. Era già capitato anche a Natale di parlare con un amico che faceva più o meno il tuo lavoro. Fate anche robe di Natale voi? Sì, noi anche roba di Natale. Anche roba di Natale. Natale, Pasqua, tutte le festività. Quindi le festività, sì. Poi le sentite bene voi, no? Sì. Sì, no. Occupiamoci di San Valentino, cioè quindi tu sei informatissimo. Abbastanza. Di tutte le peggio cose che si possono regalare. Le peggiori. Ti chiederei esatto di segnalarmene alcune. Alcune di quelle sono un po' kitsch. Le kitsch sono gli slip da uomo. Con le varie scritte I love you, varie scritte orribili. No, ma elencamele pure. Slip, magliettine, cuoricini, portachiavi, calzini. Con su scritte o niente? C'è tutto con sui cuori. Con tutto scritto sopra, angeli, I love you, ti amo. Ne le cose peggiori. Si sente che ne hai fin sopra le orecchie. Sì, qual sì. È l'oggetto che va per la maggiore nel San Valentino 2008? Il pupazzo con scritto I love you. Ma pupazzo cos'è? Un orsetto? È un tipo orso, ma è bruttissimo. No, dai, non dire così. È brutto, sì, davvero? Sì, è bruttissimo. Almeno è morbido eppure duro. È morbido. Ce l'ha un cuore grosso in mano. Ha un cuore in mano con le ali dietro. Dai, è tenero, Massimiliano. È bruttissimo. È solo perché ci lavori, magari piace agli altri. Sì, magari piace. Sì, gestite anche dolciumi o fate solo? No, solo gadget. Dai, dimmene un altro, oltre al vestire e all'orsetto. Per vestire poi vari pupazzi, vari maialini. Dai, maialini. Che si muovono anche? No, tutta roba peluche, portati roba ferma. Roba dolce. Bambolotti. Roba brutta, oscena. Massimiliano, posso chiederti se tu festeggerai San Valentino? Hai una compagna? Sì, ho una compagna, ma non festeggiamo San Valentino. Esatto, gliel'hai spiegato alla ragazza che insomma. Sì, ma anche lei è rock e non festeggia, okay, San Valentino. Ma soprattutto per questioni professionali tu sei anche esentato, secondo me. Sì, anche perché è già più di un mese che vedo oggetti orribili. Senti, ti senti di lanciare un appello contro la tua ditta, o meglio, contro San Valentino, agli amici all'ascolto? Sai, quelli che si sono accorti adesso che è San Valentino e hanno detto: no, dai, allora vado a prendere qualcosa. Cosa gli vuoi dire? Non comprate niente. Non festeggiate San Valentino. Qual è la prossima festività? Cioè, dopo, da domani, a cosa vi mettete a lavorare? Da domani si comincerà con Pasqua. Pasqua? Bene. Anche lì senza cioccolato, però, quindi ci sentiamo poi per Pasqua, Massimiliano. Perfetto. Buona giornata comunque, allora. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao. Ragazzi, capitelo, ce ne ha fin sopra le orecchie, no? 335-100-7777. Chi è che scrive musica patetica? 8 e 10 minuti primi, cosa stava andando? Spero non i Beach Boys. Per San Valentino io organizzo un torneo di Street Fighter con ragazza e amici, abbastanza rock, forse un po' nerd, Davide. Beh, dipende cosa intendi per Street Fighter. Si chiamano Who e questo è il massimo, gustatevela. No, questa veramente non posso credere. Non ci voglio credere. Hai scritta, la vedo, la leggo, ma non posso credere. Ma lei lo sa, è la caratteristica delle ansie in ansia. Che cose sono strane, ma in realtà sono vere. Lo strano ma vero, certo. Non ci posso credere. Quello che sembra impossibile ad una prima lettura è però confermato. Eravate abituati al chihuahua di Paris Hilton? Beh, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Le lancio la sigla? Sì. Sigla! Chihuahua dal pelo lungo. Dal pelo, eh? Dal pelo, sì, no, sì. Volevo... Chihuahua dal pelo lungo. Sono piccoli chihuahua, no? Esatto. Dal pelo lungo si converte al buddismo. Un chihuahua dal pelo lungo si è recentemente convertito al buddismo. Sembra incredibile, eppure l'animale, che ha approssimativamente 18 mesi, sembra essere un vero e proprio fedele. Stando a quanto raccontato dal suo padrone, un monaco, il piccolo cane partecipa quotidianamente a tutte le fasi del rito nel tempio buddista di Shurikanondo, a Naha, nella provincia giapponese di Okinawa. L'animale, che risponde al nome di Conan, non si limita a stare passivamente nella sala dove abitualmente si prega, ma quando vede il suo padrone recitare i sutra previsti dalla sua fede, lo imita, mettendosi persino in piedi sulle zampe posteriori. Secondo quanto riferito dalla testata Metro UK, il chihuahua prega anche prima di uscire per fare una passeggiata e prima di ogni pasto. Io ho una spiegazione per tutto questo. Per Conan. Logica, sì, logicissima. Me la dica. La reincarnazione. Aia, eccolo lì che si butta nella reincarnazione. No, io avevo un'altra domanda. È molto semplice, nella vita passata Conan è stato un monaco buddista. Certo, tra l'altro che ha un padrone monaco che lo chiama Conan, che già c'è qualcosa che non va. È vero. Ma la mia domanda è, ma se sto cane si è convertito al buddismo, prima cos'era? Cristiano? Cattolico? Islamico? Islamico, ditecelo, perché sennò la notizia è imprecisa. Vero, e noi siamo per la precisione. Può dirlo forte. Noi siamo per la precisione. No. Lei è scemo. That I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. cosa c'è di inquietante se non il test attitudinale? Il test attitudinale è inquietante, trova? Ma a volte sì, perché mette in imbarazzo. Può capitare. Semplice però il test attitudinale di quest'oggi, che si occupa di un vezzo che spesso i rocker hanno, quello del tattoo. Esatto, sbirciato, si intitola tatuaggi famosi. Esattamente, come per esempio quelli di Fricantoni, che affronteremo nelle prossime puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Ma sì, ce li ho, lo ammetto, lo confesso. Lo ha pubblicato anche Visto, Novella 2000 ed altri giornali di gossip. Ne ha di molto belli. Ne ho di straordinari, dei tribali incredibili. Certo, dei folletti che le danzano sulle chiappe. Esatto, che bello. È vero, degli unicorni che spiccano il volo. Ma occupiamoci dei tatuaggi di Axl Rose, che ma è sì, il cantante dei Guns N' Roses. Che era solo leggermente più bello esteticamente solo parlando di me, sì, ma un sì. Ma i tatuaggi io preferisco i suoi. La ringrazio. Sarò onesto. La ringrazio. Voi, fan dei Guns N' Roses, ricordate quale tatuaggio campeggia sulla spalla destra di Axl Rose? Forse, ipotesi A, una croce celtica con incisa una scritta nazi punk. Oppure, ipotesi B, la faccia del mitico Che Guevara. Oppure, ipotesi C, una rosa nera. Quale di questi tatuaggi c'è veramente sulla spalla di Axl? Abbiate pazienza, fate la vostra scelta, noi vi diamo la soluzione esatta tra poco, la giusta risposta poco dopo. A volte ci vogliono anni, decenni per diventare un bravo musicista rock. A volte non ci vuole proprio niente. La Casa di Cura Eleonora Duse vi offre il primo corso per musicisti rock con la bocca. Con la bocca. Qual è il tuo strumento? Il mio è la batteria, senti qua. Invece il mio è la chitarra. Il mio è il basso. È facile diventare un musicista rock con la bocca. Non esitare, invia subito un SMS per il tuo provino gratuito al 335 100 7777, con la scritta musica rock con la bocca. Sì, non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Semplice, facile e veloce. Non esitare.